in primo piano. Troviamo per l'appunto questo tema del clima, sul quale aprono alcuni quotidiani, anche se le aperture sono soprattutto economiche. Scudo fiscale e finanziaria, questi due temi che trovate, il Sole 24 Ore li mette insieme, per esempio nell'apertura, meno tempo per lo scudo e poi finanziaria light, con risorse agli statali, detassazione delle famiglie. Così anche il Corriere della Sera, finanziaria senza tagli e tasse, questa è l'apertura. La Repubblica invece sullo scudo fiscale, scudo e colpo di spugna, sanatoria estesa ai falsi in bilancio, poi vedremo perché. Sul clima apre La Stampa, Obama, catastrofe clima, statali e lavoro via la manovra, questa è l'apertura del Messaggero, le altre aperture le vedremo. Anche se è doveroso, lo faccio perché è un nuovo quotidiano che era atteso, e come dire, dall'apertura e dal titolo del primo giorno, sicuramente vuol dire che è un quotidiano che farà parlare di sé. Il Fatto Quotidiano per meglio dire, esce da oggi, è il nuovo quotidiano di Antonio Padellaro, fuoriuscito dall'Unità, che mette insieme anche firme come Marco Travaglio. Parto da questo perché la notizia sparata in prima pagina è niente meno che indagato Letta, Gianni Letta, da 10 mesi e nessuno ne parla. È un articolo all'interno di Peter Gomez e Marco Lillo. Gianni Letta è indagato da 10 mesi per il business dell'immigrazione, nessuno però lo sa o lo scrive, scrivono Gomez e Lillo. Lo ignora persino il magistrato che dovrà occuparsi di lui, si chiama Francesco Greco, è omonimo del procuratore aggiunto a Milano, lavora da poche settimane a Lago Negro, in provincia di Potenza, dove la procura più piccola d'Italia appunto dovrà decidere le sorti dell'uomo più potente del governo dopo Silvio Berlusconi. E sostanzialmente nell'articolo scrive avanti Gomez e Lillo: Letta è sotto inchiesta per reati piuttosto pesanti, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, truffa aggravata, carte che accusano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in concorso col capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero degli Interni Mario Morcone e alcuni manager della Cascina, una holding di cooperative da 200 milioni di euro di fatturato. Braccio secolare di Comunione e Liberazione a Roma, nata come mensa per gli studenti della capitale, oggi controlla ospedali, hotel a 4 stelle, ristoranti di grido. E insomma, questa è la notizia sparata in prima pagina, tanto che su Il Riformista c'è già il controtitolo. Vale a dire, esce Il Fatto Quotidiano con la notizia indagato Letta e Il Riformista oggi apre così: attacco a Letta. Il PM quotidiano, il giornale di Padellaro, comincia con il suo indagato eccellente, rispolvera un'indagine sul sottosegretario. E scrive Stefano Cappellini: i lettori del Fatto, questo impasto di ex PD ed ex PC, sensibili al dipietrismo, di liberali outsider anti-berlusconiani, di grillini di destra e di sinistra, soprattutto di giustizialisti, orfani inconsolabili della stagione delle manette, non si dovranno accontentare dei resoconti sul caso Travaglio. Il primo numero si segnala per un classico del filone, l'indagato eccellente, che nel caso in questione sarebbe Gianni Letta. Si dà conto degli sviluppi di un'indagine della Procura di Potenza, PM John Woodcock naturalmente, sull'apertura di nuovi centri di identificazione ed espulsione. La notizia, scrive il Riformista, non è nuova. Sull'inchiesta Potentina, il cui fascicolo è stato trasmesso a Roma, erano già uscite indiscrezioni prima dell'estate, ma l'ipotesi che Letta fosse ufficialmente indagato non ha mai trovato conferme. Conferma che si trova invece nel titolo di apertura del Fatto. Dunque il Fatto Quotidiano si presenta così. Dicevamo l'economia, i temi che si trovano sono lo scudo fiscale e la finanziaria. Per esempio il Sole 24 Ore dedica tutte le prime pagine a questi due temi. Lo scudo ci sono delle novità, lo scudo fiscale, come scrive Isabella Bufacchi all'interno a pagina 3 del Sole. Scudo fiscale 3, extra large ma in tempi lampo, ovvero la protezione, scrive Bufacchi, è estesa a una lunga lista di reati tributari e societari, tra i quali quello politicamente sensibile del falso in bilancio e quello inatteso della distruzione di documenti contabili. Gli intermediari non sono tenuti a segnalazioni per l'antiriciclaggio per i reati protetti, la platea è allargata dalle sole persone fisiche ai partecipanti di imprese estere, l'arco temporale però è abbreviato di 4 mesi su 7 con scadenza anticipata al 15 dicembre. È sostanzialmente questa la terza edizione dello scudo fiscale a distanza di appena 8 giorni dal debutto, cambiata ieri in maniera sostanziale. Questo per opera di un emendamento che è stato peraltro scritto e riscritto 3 volte, come ci dice Isabella Bufacchi, dal senatore del PDL Salvo Fleres, che oggi verrà approvato in via definitiva. Primo sì allo scudo allargato, e questo è il titolo. E ovviamente ci sono vari commenti di critica o di approvazione su questa decisione. Repubblica è molto critica, titola in prima pagina il regalo agli evasori. Venghino signori, venghino che c'è lo scudo. Così inizia l'articolo Alessandro Penati. Il tesoro ha bisogno di soldi, lo scudo è semplice e conveniente per gli evasori buoni, ma da oggi c'è una ghiotta sorpresa anche per i cattivelli che hanno commesso dei reati. Avete falsificato i bilanci, emesso fatture false, stipulato contratti per transazioni inesistenti, distrutto documenti. Tranquilli, per lo scudo non c'è problema. Il regalo agli evasori è questo il titolo. Devo dire che alcune critiche si scovano allo scudo fiscale anche in prima pagina del giornale, in un articolo firmato da Nicola Porro. Scudo fiscale esteso alle società. Inizia così Nicola Porro: lo capisce anche un bambino che questa storia dello scudo fiscale è un pasticcio che gronda ipocrisie da tutte le parti. La questione per il governo è semplice quanto vecchia: l'esecutivo ha fame di quattrini. Siamo in crisi, le imposte naturalmente non sono un'abbondante messe, sull'evasione fiscale si prova a fare il possibile, anche più del possibile, come spesso denunciamo da queste colonne. Al tesoro, per far quadrare i conti, ci sono 2 strade, o aumentare le imposte o fare cassa, maledetta e subito, e dunque varare lo scudo fiscale, un modo come un altro per far pagare qualcosina agli evasori. Il titolo all'interno è «Il rientro dei capitali diventa salva imprese». L'altro tema economico che trovate è quello della finanziaria. Come detto, è l'apertura che è scelta da alcuni giornali insieme allo scudo fiscale. E all'interno ci sono vari articoli, per esempio anche interessanti, sia sul Sole 24 Ore sia sulla Stampa c'è anche una sorta di quello che era la finanziaria prima dei tempi moderni. Il Sole 24 Ore, Tremonti, manovra addio, i fondi CIG restano al lavoro, questo il titolo all'interno, ma quello che mi interessava era l'articolo in taglio basso, quello di Luigi Lazzi Gazzini. Quando si assaltava la diligenza, quella varata ieri, scrive Lazzi Gazzini, dal governo è probabilmente l'ultima finanziaria. Se la riforma contabile ora alle Camere sarà approvata, dal 2010 la finanziaria cambierà nome, si chiamerà legge di stabilità. E poi c'è un lungo excursus di quello che era la legge finanziaria in altri tempi. Un'elaborazione della legge contabile del 78 che istituì la finanziaria vide impegnati i migliori intelletti che allora adornavano il Parlamento, compreso Nino Andreatta. In aula c'era voto segreto, regolamenti senza vincoli per emendamenti e interventi, dispetti tra partiti e correnti, tipici quelli del socialista Gianni De Michelis, che da ministro subiva bocciature selettive al suo bilancio, esibizionismi di singoli e di gruppi che rendevano il dibattito più simile a una rappresentazione circense che a un'attività legislativa. I tempi si allungavano tra imboscate, colpi di mano. L'esercizio provvisorio del bilancio, a cui si giunge quando i conti non sono approvati entro il 31 dicembre, era regola. Insomma, anche Mario De Aglio in prima pagina sulla Stampa, in un commento intitolato «Il timoniere alle mani legate», il timoniere sarebbe poi Tremonti, quindi il ministro dell'economia, scrive: si occupava letteralmente il tempo in Parlamento giorno e notte con sedute interminabili, ovviamente con la ex finanziaria, un susseguirsi di ostruzionismi, colpi di scena, imboscate dalla fine di settembre alla pausa natalizia. Nobili programmi economici e meno nobili interessi di bottega si confrontavano e scontravano in una vera e propria guerra a colpi di emendamenti fino alla vigilia di Natale, quando i parlamentari esausti approvavano un documento quasi sempre molto diverso rispetto a quello originario e talora snaturato. Quella che viene presentata quest'anno è una finanziaria più che dimezzata. Poi però l'analisi, diciamo, tra il politico, l'economico e l'ideaglio è questa: il ministro dell'economia è come un timoniere con le mani legate. Non può modificare la rotta se non in qualche dettaglio. In primo luogo non può proporre un aumento delle imposte ordinarie se non in qualche nicchia, dal momento che tale aumento andrebbe contro non solo alla filosofia politica di questo governo, ma anche in un momento di crisi alla logica economica. In secondo luogo non può ricorrere ampiamente a nuovi debiti. Insomma, per questo, secondo De Aglio, il timoniere, vale a dire Tremonti, ha le mani legate. Dicevamo che trovate anche tanti, tanti commenti sul clima, sull'allarme, o meglio dire catastrofe. Questo è il termine che ha usato, tra gli altri, il presidente americano Obama. Tanti commenti, che fare, tagliare. Tra una ottantina di giorni c'è il summit di Copenaghen, dove si dovrà andare oltre Kyoto. Le interviste, c'è i commenti, c'è Al Gore intervistato dal secolo XIX, la recessione aiuta ma ora servono le leggi, c'è un'intervista al premio Nobel per la pace Rajendra Kumar Pachauri, professore indiano, premio Nobel perché è alla guida di quell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che dice: ora sono proprio gli Stati Uniti, le indicazioni sono chiare, sono loro che devono cambiare lo stile di vita attraverso un uso più efficiente di risorse, impiego di tecnologie nuove, ma devono anche adottare politiche adeguate. In questa intervista Francesco Semprini proprio a New York. E proprio dal clima e da altre notizie ripartiremo tra poco, subito dopo il traffico. Di clima e di allarmi sul clima è pieno davvero i commenti dei giornali. Io voglio ricordare che questo è anche il sondaggio che facciamo oggi e di cui parleremo alle 8.30. Vi chiediamo se secondo voi c'è davvero un pericolo concreto per il futuro della Terra. Potete andare già a votare su radio24.it alla sezione bianco o nero. Le promesse di Pechino e Washington, nasce l'asse della Green Economy. Questo scrive Federico Rampini su Repubblica e anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. ONU e Stati Uniti, sul clima si rischia la catastrofe, ma scrive Massimo Gaggi che c'è il vuoto dietro i proclami. Yes, we can, ma io non sono pronto, ironizza il negoziatore dell'ONU sull'ambiente, Ivo De Boer. Sintetizzando in una battuta le difficoltà di Obama, che vorrebbe voltare pagina dopo gli anni di Bush e del rifiuto del protocollo di Kyoto, ma è frenato da mille ostacoli. Sostanzialmente, scrive Gaggi, Obama dice: rischiamo la catastrofe, ma intanto il suo negoziatore ha rifiutato di assumere impegni quantitativi precisi, verificabili e sanzionabili da un'autorità internazionale. Dunque, da una parte i discorsi, dall'altra parte poi quello che sul tavolo delle trattative avviene in maniera concreta. Tra l'altro segnalo rapidamente che sul tema energetico in generale e più ampio c'è l'apertura del manifesto Reazione Nucleare. 5 regioni italiane si sono rivolte alla Corte Costituzionale, sono Calabria, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia e Lazio, dunque sono 7 le regioni, che impugnano il decreto sviluppo che vuole riportare il nucleare in Italia. E su Libero risponde idealmente il ministro Scajola in un'intervista: la consulta ci dirà sì. In questa intervista Fausto Cariotti: non voglio pensare a un disegno politico elettorale dietro il ricorso alla Corte Costituzionale, dice Scajola. Penso invece che nel centrosinistra, dove pure ci sono esponenti a favore dell'energia nucleare, finiscano per prevalere posizioni vetero ideologiche di un ambientalismo datato che non è neppure più in sintonia col moderno pensiero verde. C'è anche il caso Travaglio, lo trovate sui giornali, la vicenda di Anno Zero che parte, ieri una burrascosa conferenza stampa, senza Travaglio niente Anno Zero, Santoro lancia il suo ultimatum, 2 pagine su Repubblica, ma è addirittura l'apertura del giornale questa, l'apertura del giornale è proprio dedicata al caso Santoro. Santoro carica i fucili contro Berlusconi, i piedi della sinistra nel piatto Rai. Questa è l'apertura del giornale. All'interno invece di Repubblica c'è un'intervista a Massimo Liofredi. Chi è? È da luglio il direttore di Rai 2 ed è uno che ieri ha fatto la conferenza stampa a fianco di Michele Santoro dicendo: qui ecco il conduttore del nuovo programma, un programma di cui io farei volentieri a meno sulla mia rete. Ovviamente c'è stato un parapiglia, minacce di denunce, di querele da parte di Santoro nei confronti di Lio Fredi o viceversa, insomma adesso non lo so, comunque una burrascosa conferenza stampa che potete anche vedere facilmente sui vari siti. Ebbene, Massimo Lio Fredi dice: la verità è che Anno Zero ha a disposizione il meglio del meglio della produzione Rai. Ci sono trasmissioni che lavorano con pizza e fichi e poco budget e vanno in onda lo stesso, mentre lui, cioè Santoro, viaggia in business class e ha il coraggio anche di lamentarsi. E poi dice: per carità, fa uno share altissimo, 16-18%, è un grande giornalista, ma Rai 2 è una rete per i giovani e le famiglie, Anno Zero c'entra poco o niente. Comunque a me non piace una trasmissione inquisitoria, sicuramente di parte, dove gli ospiti sono inseriti in un contesto preconfezionato, con una tesi preordinata ed escono senza aver capito nemmeno a cosa hanno partecipato. Dice che non lo vuole sulla sua rete, chiede Goffredo De Marchis. No, lo accetto volentieri, lui è un ospite, ma può restare. Anzi, lo metto nelle condizioni migliori di lavorare. E poi, ecco, si è preso del bugiardo in pubblico lei, Santoro gli ha dato il bugiardo. Non lo querelo, ma sono stato fin troppo gentile, è un'accusa grave che non accetto da nessuno. Insomma, questo è il clima tra il direttore di Rai 2 e un programma, e il conduttore di un programma che va su Rai 2. E, sempre per quel che riguarda la stampa o la libertà di stampa, segnalo una bella intervista di Mariolina Sesto a Vittorio Feltri, uno dei protagonisti della informazione degli ultimi tempi, come sapete. Perché? Perché c'è stato questo incontro Fini-Berlusconi, ieri le leggevamo qualche retroscena, pare che Fini, dai retroscena ovviamente, abbia chiesto in qualche modo la testa di Feltri, a dire cioè Berlusconi, togli Feltri dal giornale. E dice Feltri a Mariolina Sesto: mi ha molto colpito qualche resoconto secondo cui Fini avrebbe rinnovato davanti al premier la richiesta della mia testa alla direzione del giornale. Mi sembra impossibile, ma se fosse vero dimostrerebbe che il presidente della Camera ha perso la sua di testa. E poi, questo cambierà atteggiamento? No, non lo attaccherò a freddo, ma se risultasse vero che ciò che è uscito sui giornali, non mi farò problemi a rispondergli direttamente. Ho un minuto per segnalare un paio di notizie. Una dal Corriere della Sera: arriva il gioco che fa vincere 4.000 euro al mese per 20 anni. Questa addirittura è l'apertura del quotidiano nazionale. Da lunedì bisognerà indovinare 10 numeri, si chiama Win for Life, ed è una scheda che costa un euro. Invece di vincere un montepremi, che cosa si vince? Si vincono 4.000 euro per 20 anni, uno stipendio. E scrive Beppe Severgnini: se il nuovo sogno è uno stipendio, i sogni si adeguano, l'idea della Sisal è abile, dimostra conoscenza dell'animo umano, si passa dalla fantasia impossibile alla speranza abbordabile, dall'eventualità di trasformarsi in un sultano a quella di diventare uno stipendiato senza lavorare. Prospettiva vagamente immorale, quindi graditissima. Insomma, farà discutere questo gioco che parte da lunedì. Se si vince, si vince uno stipendio, 4.000 euro, non è poco, al mese per 20 anni. Tra l'altro anche da poter lasciare in eredità in caso poi succeda una disgrazia. E allora ci fermiamo, votate il sondaggio su radio24.it. Il clima, c'è davvero un pericolo concreto per il futuro della Terra? Dovete andare su radio24.it e poi ne parleremo alle 8.30, potete già chiamare per prenotare il vostro intervento all'800 24 0024.